Una svolta importantissima nella storia del cristianesimo si è avuto con l'imperatore Costantino, il famoso editto del 313 che rende la religione cristiana tollerata, mentre prima era perseguitata, si pensi solo a Diocleziano. Ecco, con Costantino, con la sua conversione, si preparò poi a diventare il vicario di Cristo in terra. E col concilio di Nicea del 325 lui si comporta proprio come fece Gesù. Alla fine fa una specie di banchetto in cui è lui stesso a distribuire il cibo ai vari vescovi, insomma, alle varie cose. E quindi, in qualche modo, che cosa fa? Sigilla la unione tra imperium, il potere terreno, e l'impero celeste. Nella sua persona, l'imperatore diventa. Da Costantino in poi la religione cristiana diventa la religione dello Stato. E voi direte, ma in realtà a Roma c'era sempre stata una religione di Stato, e difatti è così. La religione in Roma era una religione civile che serviva come collante sociale. Era sempre servito il culto nei confronti degli dèi a sancire la sottomissione all'imperatore, perché l'imperatore era considerato una divinità. Siccome il culto degli dèi cominciava a scricchiolare, e d'altra parte stava emergendo questa nuova potente religione che è il cristianesimo, Costantino ha avuto un'intuizione geniale: sostituiamo il paganesimo, le vecchie divinità, con la nuova. Ed è diventata la religione di cristiani, la religione cristiana, la religione di Stato. Da lì in poi si prepara il tempo in cui la religione avrà nel potere civile il suo braccio secolare. L'Inquisizione non eseguirà mai lei le condanne, ma sarà sempre l'Inquisizione, il Tribunale Inquisizione, chiederà all'autorità civile di eseguire le condanne. Quindi inizia quel rapporto tra religione e potere temporale che caratterizza poi tutta la storia successiva del cristianesimo. E che non rimane più come prima, è un'altra cosa. Prima i cristiani venivano perseguitati durante l'impero, non perché si opponessero all'autorità civile, non lo facevano, ma si rifiutavano di adorare e fare sacrifici alle divinità pagane, perché riconoscevano in quello un solo Dio loro. Ora, per la politica romana, la sottomissione alle autorità, alla religione romana, era un modo di sottomettersi all'imperatore. Quindi i cristiani che si rifiutavano di fare i sacrifici per le divinità pagane, poi venivano perseguitati. È interessante che poi le cose cambiano, si ribaltano completamente. Prendo un autore come Lattanzio, il quale, prima dell'editto di Costantino, riteneva che i cristiani non dovessero mai usare la forza e che la guerra fosse la cosa più sbagliata della terra, che dovevano solo praticare l'amore. Dopo l'editto di Costantino, Lattanzio cambia idea. Visto che è diventata religione dello Stato, allora la religione, siccome è quella giusta, guarda bene, allora ha anche il diritto di fare la guerra, perché è una guerra giusta, e di perseguitare coloro che non sono d'accordo. Quindi la religione di Gesù, che doveva essere la religione che portava la pace sulla terra, si è sposata col potere temporale, e siccome è ritenuta l'unica vera religione, ha ritenuto di poter appunto combattere con le armi fisiche coloro che la pensavano diversamente. E a questo proposito è interessante ricordare un episodio che riguarda Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, vescovo che è stata un'importanza enorme in questo campo, no, del rapporto tra religione e politica. Perché sotto Sant'Ambrogio c'è stato, proprio si sono create le condizioni per cui l'imperatore, che in quel caso era Teodosio, doveva sottostare all'unzione da parte del vescovo. Ecco. Si verifica infatti che Teodosio si fece prendere la mano una volta in una controversia e fece uccidere parecchie persone in una città. Sant'Ambrogio lo riproverò e praticamente lo scomunicò, nel senso che non gli consentì più di entrare nella Basilica a Milano. questo punto Teodosio disse, ma anche i re biblici avevano fatto delle persecuzioni giuste e quindi anch'io che cosa ho fatto? E lì Sant'Ambrogio però non cede e dice che lui ha sbagliato e che si deve pentire. E lui è pronto a pentirsi, solo che lo deve fare di fronte al vescovo. Quindi attraverso questa mossa Sant'Ambrogio riesce a comunicare al mondo che prima viene la religione e vengono i vescovi e l'imperatore è semplicemente un unto di Dio, è un vicario di Dio, insomma è collegato alla religione ma è sottoposto. Ora questo rapporto è quello che poi caratterizzerà i rapporti di tutto il periodo tra il papato e l'impero, come ben sappiamo. Quindi tutte le guerre di religione che ci sono state, che sono ben note, per cui Gesù che ha portato sulla terra un Vangelo che doveva essere un Vangelo di pace, con queste trasformazioni che il cristianesimo ha avuto, è diventato una delle fonti più grosse di controversie, di lotte e di spargimenti di sangue. Fino a Sant'Ambrogio è cambiata la posizione. Prima che era il potere